la situazione era funzionale ad un certo sistema. Situazione che peraltro rientra negli schemi classici dell'avvio all'industrializzazione di qualsiasi nazione. Lascia solo perplessi che ciò avvenisse all'interno di uno stesso land e che di fatto innescasse un meccanismo che deprimeva ulteriormente la già disagiata economia di una parte di esso, quella italiana, perché chiaramente producevano ricchezza in Vorarlberg, ma quando era necessario per l'assistenza ci si rivolgeva sempre alla Valsugana. E quindi al Trentino. L'importanza della forza lavoro degli immigrati trentini per l'industria foralberghese viene evidenziata ulteriormente dalla sperequazione salariale a danno degli stessi. Chiarificatrice in proposito può essere un solo esempio: la paga giornaliera delle operaie della ditta Gerstner, dove lingua italiana può essere interpretata anche come forza lavoro marginale. Qui abbiamo un pagamento in corone, quindi una filatrice di lingua tedesca era pagata 60-70 corone al giorno, filatrice di lingua italiana 45-72 corone, una tessitrice di lingua tedesca 48-163 corone, se di lingua italiana 40-79 corone. I lavoratori italiani quindi costituivano la riserva di manodopera a cui attingere e la loro fame era il capro espiatorio a cui imputare quella che i lavoratori locali definivano sleale concorrenza, funzionale al mantenimento dei bassi salari per gli alti profitti. Nonostante ciò, nel 1910 gli operai di lingua italiana, che rappresentavano ufficialmente il 5%, in realtà ufficiosamente ammontavano all'8%, quindi il lavoro nero, come vedete, degli immigrati è cosa molto vecchia. E questi lavoratori ufficiosi erano soprattutto trentini, che si spostavano con maggior facilità essendo all'interno di confini amministrativi. Il superamento delle barriere etniche avveniva solo con l'ascesa sociale acquisita tramite il lavoro. Finivano gli stereotipi pregiudiziali, ma l'integrazione però era ancora lontana, perché era una convivenza improntata al motto, cito testualmente, uniti e divisi. Così dovevano essere gli immigrati trentini in Vorarlberg. Un cappellano italiano, che si ritiene fosse in realtà trentino, scriveva su un giornale, lamentando le pessime condizioni di lavoro dei connazionali nel Vorarlberg: "La posizione dei miei connazionali occupati qui nel Vorarlberg, nei cotonifici, parvemi che essi, sotto certi aspetti, si potrebbero rassomigliare agli israeliti colà nell'Egitto ai tempi di Mosè, perché col nome di Piaga, infatti, furono segnati in una corrispondenza del Vorarlberg Volksblatt", che era l'organo clericale, peraltro. Ma nonostante ciò, le braccia trentine erano sempre in prima linea. Alcuni giornali locali giunsero ad esprimere il loro apprezzamento per i lavoratori trentini, nonostante avessimo nutrito nei confronti degli elementi trentini una certa preoccupazione per la nostra stessa tranquillità e sicurezza. Evidentemente per il proletariato non valeva il concetto diffuso tra i funzionari dell'impero, che il suddito asburgico si uniformava e identificava nell'imperatore, non nella nazione. In questo clima di difficile convivenza, improntato ad una malintesa tolleranza, e dove c'è tolleranza non c'è rispetto, non c'è diritto, anche dove avrebbe dovuto esserci il rispetto di un diritto nella comunità valsuganotta, in particolare, si sviluppò una solida identità culturale, forte del senso di appartenenza ad un'antica area dell'impero, perché comunque essi si sentivano ed erano le ali sudditi di Francesco Giuseppe, e questo lo si ritrova ancora chiacchierando con alcuni vecchi immigrati. La globale diversità che si trovarono a fronteggiare loro malgrado sviluppò in essi un'identità etnica che era sorretta dallo spirito di coesione del gruppo creatosi nel luogo di immigrazione, tra gente in cui anche la comune origine sociale aveva contribuito a sviluppare forti legami. Ma tale condizione, in realtà, che produceva ed esaltava la solidarietà, generava anche un negativo effetto di implosione, che è stato proprio quello che ha limitato la loro integrazione. In estrema sintesi, possiamo individuare nel fattore lingua quell'invisibile diaframma che negli emigrati di prima generazione aveva costituito un ostacolo. non solo all'inserimento, ma anche al godimento dei loro diritti di cittadini asburgici. Negli emigrati di seconda generazione, quando la scolarizzazione obbligatoria aveva fatto acquisire l'uso del tedesco, incentivato anche come mezzo di elevamento sociale dalle stesse famiglie, perché alla sua conoscenza era correlata l'ascesa nel mondo del lavoro, che non era una grande ascesa, ma almeno avere la definizione di operaio, tout court, non di giornaliero, era già molto. Da parte tedesca si parla di assimilazione realizzatasi completamente solo alla terza generazione, per quei gruppi di trentini che avevano capacità di adattamento. Non è questa la sede per polemizzare sul termine e sui concetti adottati dai colleghi tedeschi, ma non possiamo esimerci dal rilevare che assimilazione è ben altra cosa che integrazione, poiché significa la perdita della propria cultura di origine, così come adattamento significa adeguamento a modelli di vita affatto diversi. Significava per questa gente fare comunque parte di un grande impero, qual era l'Austria, e di questo ne erano comunque orgogliosi in qualsiasi condizione si trovassero, perché continuavano a vivere in una delle tante piccole patrie dove erano ufficialmente sudditi, ma ufficiosamente erano solo immigrati di lingua italiana. Grazie. Sono le 19:10, stando a quell'orologio, e quindi è tardi. Direi che l'argomento che dovrei svolgere è estremamente impegnativo, dato il luogo. Ma è che parliamo di cose riguardanti noi che viviamo qui, quindi è difficile fare un discorso in breve e in sintesi. Io cercherò di farlo lo stesso. Innanzitutto voglio dare un consiglio. Josef Zoderer ha pubblicato lo scorso anno il suo ultimo romanzo Der Schmerz der Versöhnung, Der Verwöhnung, il dolore della sua fazione o dell'abitudine, insomma. Questo romanzo, che non è stato ancora tradotto in italiano, è molto importante perché il protagonista, il suo protagonista, è ossessionato dalla ricostruzione del personaggio di suo suocero, che era un avvocato di Agrigento siciliano, immigrato, iperfascista, gerarca fascista e padre della moglie di questo personaggio, protagonista che è invece un autentico sudtirolese. Ecco, questa angosciosa, ansiosa ricerca che fa, state bene attenti, è un romanzo, non è uno studio sociologico, non è uno studio di politologia, no, è un romanzo. Questa ossessione di questo personaggio è estremamente indicativa. E direi che la lettura di questo libro vale di più di tanti manuali, di tanti studi e di tante ricerche. È un documento straordinario. Le recensioni che sono state fatte a questo libro sono state molto frettolose, svelte, quasi distratte, non so se di proposito o meno. Io avrei potuto impegnarmi a recensire questo libro, ma vi dico la verità, io non sono uno studioso di letteratura, non sono adatto a fare un lavoro di questo genere. Questo è un libro che richiede veramente uno studioso di professione. È vero che per Zoderer sono stato quello che è stato incaricato dal giornale Alto Adige, da Gandini che mi ha telefonato, appunto, senti, per favore, fa una segnalazione del libro di Zoderer, l'italiano. Ecco, e io l'ho fatto. E Zoderer era tutto sommato piaciuto. Poi Zoderer l'ho anche invitato al liceo classico Carducci, dove facevo il preside. Ma voglio dire, questo libro è molto importante, quindi per questa questione che adesso dovremmo affrontare sarebbe indicativo, come documento, dico subito, perché qui Adesso è inutile mettere le cose in termini troppo con pretesa scientifica, perché non c'è assolutamente il tempo. Insomma, certamente già la relazione precedente, no, parla dell'immigrazione trentina, di spostamenti. Sì, io devo precisare una cosa. Stiamo bene ungarico, vero? E l'impero austro-ungarico va verso una progressiva crisi che porterà al suo disfacimento in tutto il XIX. E contribuiscono a questo, diciamo, i tedeschi stessi della Prussia, per esempio. No, questo, gli ungheresi. Quindi è tutto un processo che si aggrava man mano, ci si avvicina al Novecento. No? Negli ultimi anni dell'Ottocento e negli anni che precedono la Prima Guerra Mondiale, questo impero va incontro a una crisi terribile. Devo dire che questa crisi è una crisi che viene descritta da diversi autori austriaci stessi, e noi però conosciamo questa letteratura, anche parlo proprio di letteratura, di romanzi, di racconti, eccetera, molto poco, perché possiamo conoscere gli autori tedeschi, che per esempio, non so, Adelphi sta tirando fuori autori austriaci a tutto andare a gogo in questi anni, no? Ma poi c'è tutta la letteratura slovena che noi ignoriamo quasi integralmente, no? La letteratura croata e la letteratura serba, ahimè, io quando andavo all'università c'era la cattedra di serbo croato, ecco, c'era, no? Degli studenti del mio liceo sono andati con due brave professoresse a Klagenfurt per partecipare ad iniziative interlinguistiche e interculturali organizzate lì, e quindi lì queste mie professoresse, dico mie, insomma le professoresse del mio liceo, hanno avuto la possibilità di parlare con professoresse croate, professoresse slovene, no? E queste hanno detto, sì, ma da noi adesso i libri vengono messi via dalla biblioteca. Questo era prima della grossa crisi, prima, non cose abbastanza anni fa. Io sono rimasto lì profondamente colpito e profondamente addolorato, devo dire, per questa notizia, per questa informazione. Comunque, anche la letteratura serbo-croata noi la conosciamo molto e poco, e quindi non abbiamo tante tracce, tante esperienze, no? Raccontate o immaginate o mitizzate, poco importa, insomma sono sempre documenti. Ecco, non ne abbiamo abbastanza, quindi non riusciamo a capire bene la crisi dell'impero austro-ungarico. Certo posso dirvi questo, e quando comincia qui a Bolzano l'età del borgomastro perale, siamo già entrati nella fase in cui i tedeschi dell'impero capiscono che è finita la loro egemonia. È finita la loro egemonia e devono difendere se stessi come tedeschi. E allora ecco che Per Toner, questo grande borgomastro che sarà cacciato via dai fascisti nel 21, è vero, questo grande borgomastro, e pensa di fare di Bolzano l'avamposto della germanicità. No. E infatti il monumento a Walter de Fontelwalder in piazza Walter guarda verso Trento, e come il monumento a Dante a Trento guarda verso il nord. Siamo in questa situazione ormai, siamo nella situazione in cui i tedeschi si sentono in pericolo e devono reagire. Questo spiega perché l'immigrazione prefascista, l'immigrazione cioè del periodo di cui è stato parlato prima per il Vorarlberg, produce certamente una progressiva penetrazione dell'elemento trentino. I trentini stanno così pian piano. Nella bassa Tesina riescono a mettersi nell'agricoltura, non nell'industria, nell'agricoltura. Poi i trentini cominciano a penetrare un po' dappertutto, ma vengono anche dal Bellunese, anche dall'Ampezzano, no? Tanti, dal Bellunese vengono tanti a fare i lavori edili e poi dal Trentino vengono anche imprenditori edili, cioè non scherziamo mica, c'è tutta una penetrazione italiana qui, non nel Sud Tirolo, perché il Sud Tirolo era tutto la parte meridionale del Tirolo, cioè non so, direi il Deutsche Tirol, ecco, certi dicono il Deutsche Südtirol, no? Perché poi c'era il Welsh Südtirol, o Welsh Tirol addirittura dicevano, no? Adesso noi però, in seguito allo statuto di autonomia, noi possiamo parlare di Südtirol, coincidente col territorio della provincia di Bolzano, possiamo parlare di sudtirolesi pensando agli abitanti di questo territorio, no? È chiaro che non sono i trentini, sono i sudtirolesi, anzi addirittura non comprendono gli italiani che vivono in questa provincia, solo quelli di madrelingua tedesca e i ladini, perché già nell'epoca di Per Athoner viene fuori questo discorso, tedeschi ladini insieme, italiani no, e viene una discriminazione molto forte. Stiamo ben attenti che perfino i socialisti che cercano, è vero, qui nel nostro territorio, di mettere insieme tedeschi e italiani, alla fine devono rinunciare, devono fare una distinzione tra i socialisti italiani e i socialisti tedeschi, devono farla per forza. Comunque è questo che i socialisti sono i meglio di tutti in questa situazione, eh? Sono quelli che hanno più comprensione, più tolleranza, più senso di fratellanza, diciamo, al di là delle differenze linguistiche. Sì, perché non si parla qui di nazioni, si parla di gruppi linguistici, di distinzione linguistica, è lì dove casca l'asino, anche adesso, qui nei nostri rapporti interetnici. La difficoltà è questa, no? Che solo il gruppo di lingua tedesca ha capito che doveva, cioè ha capito per forza, capisce più degli italiani per 100.000 ragioni, lo si capisce bene perché, ma insomma, che dovevano impadronirsi della lingua italiana, ambienti cittadini, non degli ambienti remoti, rurali, confinati, perché ci sono tante situazioni qui nella nostra provincia che bisognerebbe esaminare, analizzare, vedere adesso, ma non si può, non c'è il tempo, no? Il gruppo di lingua tedesca insiste sulla conoscenza anche dell'italiano. Si veda l'ultimo provvedimento preso dalla giunta provinciale prima delle elezioni per anticipare l'insegnamento dell'italiano nelle scuole tedesche, perché si preferisce parlare in italiano con gli italiani piuttosto che lasciare che i tedeschi parlino in tedesco. Che voi capite benissimo che non è una cosa affatto piacevole sentire uno che parla male l'italiano. Per un italiano, sentire uno che parla male italiano non è affatto piacevole, anche se è vero che adesso in televisione vogliamo tutto sommato belle ragazze che storpiano l'italiano, che sono russe, che sono cecoslovacche, che sono non so neanch'io che cose. È vero, c'è questa usanza adesso, anzi pare che il pubblico ami vedere una bella donna che ha l'accento straniero. No? Ecco, questa è una cosa straordinaria, però diciamo la verità, per un italiano sentire una persona che parla male italiano è una cosa piuttosto spiacevole. La stessa cosa per un tedesco sentire, per esempio, uno di noi, italiani, che parla il tedesco come riesce a parlarlo. No? È questo. Quindi c'è questa questione. Gli italiani non ricevono lezioni di tedesco dai tedeschi. Gli italiani invece le danno. Continuamente. Noi continuiamo a fare esercizio, è vero, ai sudtirolesi gratis, no? Di bilinguismo, che è un'arma in più che un gruppo linguistico ha nella lotta per l'esistenza qui in questa provincia. Dico lotta per l'esistenza perché poi la realtà è, come è stata descritta prima, cruda e molto dura. Voglio dire, a proposito del Foral, perché lei diceva, ma sa che è venuto fuori, io non l'ho letto ancora e non lo leggerò perché non lo trovo più, credo, il libro, la figlia del padrone della Ferrero, no? Ha scritto la sua esperienza della filiale della Ferrero in Germania, perché in Germania producono prodotti della Ferrero, i Kinder eccetera, non producono lì anche, ecco, e lei dice, noi italiani, qua la questione del Vorarlberg, tale quale dentro, chiusi, non c'è comunicazione, c'è niente, quindi stiamo ben attenti, no? Così, i romani sono di una crudeltà estrema. Quello che è stato detto prima, no? A proposito del Brasile, dell'Argentina, degli indiani, eccetera. Ma questa è la logica, diciamo, della storia, no? Appena si può, si fa così, no? Pensiamo cosa è successo nei paesi baltici con l'Unione Sovietica. Quando Gorbaciov ha cercato di sopprimere le rivolte per l'indipendentista lituana, solo la Volkspartei nel paese chiamato Italia ha reagito contro. Andreotti era d'accordo con Gorbaciov, però per impedire, no, ai lituani di avere la propria indipendenza. Ma come si sono comportati i lituani dopo che hanno avuto l'indipendenza? L'Unione Sovietica aveva fatto la stessa politica del fascismo nei paesi baltici, cioè ha portato su la gente a lavorare nell'industria, ha industrializzato portando russi. I russi, poveretti, si trovano molto male adesso nei paesi baltici. Cioè, purtroppo, questo voglio dire, di una crudezza incredibile. E bisogna rendersi conto che purtroppo lo sterminio è un rintocco continuo della campana. Ecco, questo è una cosa indiscutibile, inevitabile. Adesso si parla addirittura, no, degli uomini di Neanderthal. Come sono spariti gli uomini di Neanderthal? Qualcuno dice che sono stati ammazzati, no? Come gli indiani. Sono stati ammazzati come gli indiani. Allora, voglio dire, sì, quando siamo alla fine del secolo, qui, in questo territorio, siamo in piena crisi di confronto nazionale. Sono minacciati e in pericolo. Non parlo naturalmente del popolo minuto, parlo delle teste pensanti che comandano. Perché le teste pensanti che non comandano hanno il divieto di pensare. Hanno il pensiero e la riflessione. No, io questo. Quindi si parla qui adesso sempre di gruppi dirigenti, i quali riescono poi a trascinare e come a far andare a morire sul fronte la gente. Farsi ammazzare, insomma, sono riusciti le minoranze, no? Sono riuscite a fare la catastrofe della prima guerra mondiale, i massacri della prima guerra mondiale, che sono indicibili, incredibili, no? E sono riusciti, questa gente è andata lì tutta patriottica, tutta per bene. C'erano i contadini trentini, i quali si tagliavano un dito o altre cose del genere, altri che si iniettavano al tracoma, è vero, per non andare a morire al fronte, però la maggior parte invece ci andava ed è morta al fronte, in gran parte. Il numero, basta andare qui nei paesini per vedere l'elenco dei caduti. È una cosa incredibile, insomma, questa provincia, quanti morti per le due guerre mondiali. No, insomma, una cosa che ha dell'incredibile. Insomma, adesso, voglio dire, c'era questa crisi. Quando arriva il fascismo, dopo il breve periodo liberale, no? Dell'immediato dopoguerra, dal 1919 al 1921, no? Insomma, il gruppo linguistico tedesco ha ancora come espressione e rappresentanza un personaggio come Beethoven, il quale dice no. Guardate bene che i comuni sudtirolesi hanno detto di no sia all'istituzione di un liceo sloveno a Cilli, nella Stiria, nell'Ottocento, sia hanno detto di no ai provvedimenti di Badeni, il primo ministro polacco dell'impero austro-ungarico, no, il quale voleva introdurre il bilinguismo in Boemia. No bilinguismo, hanno detto qua tutti. Hanno fatto il documento, per tornare in testa. No bilinguismo, per carità, perché si inquina il nostro territorio. Noi dobbiamo difendere il mondo tedesco. Quindi no a Badeni, contro Badeni, ed erano tutti contro Badeni. È chiaro che quando è venuto l'Italia ad occupare, ha incontrato della gente che ha detto te ne vai. Cioè, non c'è stato un sudtirolese che abbia detto sì, veniamo a patti con questo Stato. No. Perché Wilson aveva promesso l'autodecisione. Guardate che oggi, in questo giorno, a quest'ora, siamo ancora là. Siamo ancora là, non è cambiato niente. Si chiede sempre l'autodecisione. Non adesso, però il principio resta. Non è cambiato nulla da questo punto di vista, si resta sempre lì. E se non si ammettono queste cose, non si riesce poi ad affrontare civilmente la situazione, con generosità, con senso di amicizia. Bisogna ammettere queste cose. Io posso andare d'accordo, essere amico di persone che la pensano in questa maniera. Io, è stato detto prima che ho fatto l'assessore, no? Per 12 anni. Ho fatto l'assessore al comune di Bolzano e ho preteso di essere rappresentante di tutti i gruppi linguistici. Cioè non avrei accettato di fare l'assessore per il gruppo linguistico italiano, la cultura per il gruppo, no. Ho detto no, o così o niente. Non so perché, ma pareva che avessi una certa forza politica e mi hanno concesso questa cosa. E quindi per 12 anni ho fatto l'assessore a Bolzano per tutti e tre gruppi linguistici. Io sono stato in ottimi rapporti con i miei colleghi sudtirolesi di giunta. Ancora adesso, dopo tanti anni, quando mi incontrano, è vero, hanno un senso spontaneo di amicizia. Però loro pensavano in un certo modo, io la pensavo in un altro. Ma non, però bisogna dirsi le cose con chiarezza, con onestà, con sincerità. Quindi è chiaro che i sudtirolesi non hanno mai accettato l'Italia. Non l'accettano neanche adesso. Non l'hanno mai accettata. Quindi è chiaro che nella situazione fra le due guerre si è avuta la situazione che si è determinata qui per il fatto che l'Italia era lo Stato sovrano. Gli Stati sovrani fra le due guerre, si provi a guardare un poco, fare un po' di storia comparativa, si vedrà come gli Stati sovrani si sono comportati fra le due guerre con le minoranze linguistiche. La logica era quella del fascismo. Sono stati comportamenti fascisti. Hanno il fascismo, purtroppo, non era un fenomeno isolato. Cioè il fascismo riassumeva, esprimeva, si alimentava di atteggiamenti e comportamenti che erano internazionali. No, bisogna che ci rendiamo conto di questo, perché sennò altrimenti non comprendiamo anche il perché del successo del fascismo. Il fascismo ha avuto un grande successo, c'è poco da dire, ha avuto un grande successo e Renzo De Felice spiega le ragioni di questo successo, non che spieghi le ragioni, perché è uno storico serio, descrive come avviene questo fatto, come si svolge questo fatto, perché questo deve fare lo storico, descrivere, no? Una situazione con una grande precisione e una grande penetrazione, lui descrive questo fenomeno. Il fascismo ha avuto successo perché ha espresso quello che si sentiva, come anche il nazionalsocialismo ha avuto successo in Germania perché ha riassunto e ha espresso cose che si sentivano. La cosa paradossale è che Hitler è stato rappresentante anche di autori dell'arte degenerata, è vero? Senza saperlo. Cioè persone della letteratura di contestazione, di estrema sinistra, oppure lasciamo stare la parola sinistra che significa molto poco naturalmente in questi casi, in queste circostanze, ma diciamo di contestazione, non saprei come dire, no? Di questa letteratura che poi viene tutta esclusa, anche perché molti sono autori ebrei, quindi escludendo gli ebrei hanno tagliato via questi disgraziati di tedeschi una parte del loro patrimonio letterario, no? Una roba pazzesca, che cosa che hanno fatto. No, però voglio dire, no signori, avevano successo, esprimevano dei fatti. Se Heidegger era orgoglioso di fare il rettore con Hitler, voi capite benissimo che vuol dire che Hitler aveva tante ragioni dalla parte sua. C'è poco da dire, è questo, quindi... È chiaro che il comportamento che il fascismo ha avuto qui fra le due guerre era un comportamento che corrispondeva a parecchie altre forme di comportamento analoghe nel trattamento delle minoranze. Il fascismo però non poté spingersi oltre una certa misura per due ragioni fondamentali. Primo, perché difendeva la proprietà privata. Secondo, perché doveva fare i conti con l'Austria e col mondo tedesco. Perché si stia ben attenti, né l'Austria né il mondo tedesco hanno mai chiuso gli occhi davanti l'Alto Adige e Südtirol. Mai. In tutti questi anni che c'erano fra le due guerre, sono sempre lì a dire Quindi Mussolini, che doveva fare i conti con questo mondo tedesco, sta ben attento a fare certe cose. Quindi si può dire senza dubbio che gli italiani che sono venuti, il governo italiano fascista qui, si è comportato in una maniera diametralmente opposta a quella dei governi liberali, democratici, dell'immediato dopoguerra, no? Civilissimi, straordinari, umanissimi dal nostro punto di vista, ma guarda un po'. Quelli arrivavano allo Statuto di Autonomia di adesso, nel 1919, ma povera Italia, questa Italia così civile, così grande, che è stata rovesciata dal fascismo, col consenso di una buona parte di italiani, col consenso di tanta cultura italiana, un straordinario consenso della cultura italiana. Certamente credo che pochi governi hanno avuto tanto consenso dagli intellettuali italiani quanto, e spirito di collaborazione quanto il fascismo, no? Ecco, si guardi, non so, l'elenco dei collaboratori dell'Enciclopedia Italiana, insomma, no, che è stata la creazione del periodo fascista con Giovanni Gentile, insomma, si guardi l'elenco dei collaboratori, no? A parte che c'è quel paradosso tremendo, io consiglio di leggere sempre la prima appendice della Treccani, perché esce nel 38, l'anno delle leggi razziali, tremendo, e la cosa paradossale è che ci sono ancora collaboratori ebrei dentro nel volume, no? E allo stesso tempo c'è la voce sulle leggi, è vero, della razza, è un fatto singolare. Adesso che sono, appunto, che ho più tempo, no? Una volta non potevo mica permettermi di guardare la Treccani in questo modo, questo lusso me lo posso concedere adesso, è vero, insomma, si vedono cose terribili, no, va bene, dunque c'è stata tutta questa collaborazione straordinaria, quindi la politica che il fascismo ha fatto è stata prudente qui nei confronti dei tedeschi, molto prudente, poi con il concordato ha cercato anche di essere più umano e più aperto per chi doveva fare... andare d'accordo con i cattolici, con i preti, è vero, e quindi c'è stato tutto questo rapporto. Ciò invece il governo fascista ha fatto di tragico e di terribile, però che facevano anche altri, in altri paesi, non c'è niente da dire, l'imposizione della lingua italiana, no? A tutti quanti, le scuole in lingua italiana e basta, il monolinguismo, coatto. E poi, questo naturalmente si viene a dire, il tentativo con l'immigrazione forzata di snazionalizzare il territorio. Ecco, a questo punto non posso approfondire queste questioni, però vorrei dire una cosa. Non si può naturalmente andare d'accordo con quelli che per ragioni di ovvia propaganda politica semplificano questi fenomeni dell'immigrazione dicendo, bene, si sono portati gli italiani qua, no? Per in sostanza snazionalizzare il territorio. Certamente il fascismo pensava con l'immigrazione di risolvere parte dei propri problemi. Pensava con la capitale Bolzano, vero? Perché Bolzano diventa capitale solo con i fascisti, perché sotto l'Austria non era capitale Bolzano, perché c'era Innsbruck. Bolzano o Trento, era Innsbruck o Trento, Bolzano non contava niente, no? Bolzano diventa capitale coi fascisti, questa provincia è stata fatta dai fascisti, dunque noi abbiamo ereditato dal fascismo, no? E tutte queste cose, no? Ecco, in questa provincia il processo di modernizzazione viene innestato dai fascisti. La zona industriale comunque si sarebbe dovuta fare e comunque si sarebbero dovute fare le centrali elettriche e sfruttare i bacini idroelettrici, perché, scusatemi, quale era la ragione di avere questo territorio? Oltre quella strategica, il confine del Brennero, però c'era la ragione dell'energia elettrica. Dell'energia idroelettrica, adesso poco importa che l'energia idroelettrica che produciamo qui ci basta appena noi, ma allora bisogna pensare alla situazione com'era, un consumo di energia infinitamente basso rispetto a quello attuale, no? Una cosa completamente diversa, un mondo completamente diverso. Bene, allora era chiaro, l'Italia faceva qui stabilimenti con produzione di alto consumo di energia elettrica. E state ben attenti che per esempio a Sinico, adesso non c'è più, adesso il Sinico non esiste più, c'era la Montecatini, no? È stato distrutto l'ambiente e risanato anche il territorio, hanno speso miliardi per risanare il territorio, il terreno. Ecco, lì c'era semplicemente la produzione dei concimi chimici, no? Con la sintesi dell'ammoniaca. Quindi era necessario assolutamente un grande consumo di energia elettrica. Anche l'alluminio, anche la magnesio qui, nella zona industriale, presupponevano un grande consumo di energia elettrica. Io come politico mi ricordo che andai dal ministro più volte a Roma per chiedere, per favore, abbiate un po' di riguardo per l'energia elettrica di questo o quello stabilimento. Io sono andato per queste cose, no? Per chiedere sconti, per chiedere cose di questo genere, perché ero preoccupato dal punto di vista politico della consistenza della classe lavoratrice, no? Degli operai. Insomma, io volevo che gli operai ci fossero e che avessero lavoro. Insomma, no, era questo il punto, no? Quindi voglio dire, c'è stato questo processo di immigrazione forzato, però stiamo ben attenti, salvo i terreni frutto di bonifica, quindi non portati via nessuno, in parte dati all'Opera Nazionale Combattenti, pochi insediamenti, i contadini non sono stati assolutamente toccati. Proprietari terrieri hanno avuto danno per la zona industriale, perché è chiaro, no? Quando fascista ha espropriato i terreni per la zona industriale senza guardare in faccia nessuno, no? Avanti a pochi soldi, a poche lire, e si è fatta la zona industriale, no? Insomma, è così, insomma, il discorso, con atto di violenza. Ecco, però i contadini non sono stati toccati. La proprietà contadina è stata lasciata e rispettata nelle sue tradizioni, nei suoi usi, nei suoi costumi. Questo è sicuro. I sudtirolesi non avevano operai dell'industria sufficienti per la zona industriale. E quindi comunque avremmo avuto degli immigrati. Adesso che gli italiani e i sudtirolesi non hanno più tanto voglia di fare lavori pesanti e gravosi, va bene, abbiamo quelli che vengono evidentemente dal Marocco, che vengono dall'Africa, che vengono dal mondo arabo o che vengono dal mondo slavo. Insomma, abbiamo questo adesso, no? Cioè adesso si sta formando un'immigrazione simile a quella italiana fra le due guerre per occupare posti di lavoro. C'è poco da dire. Le strade qua sono state fatte da imprese italiane che reclutavano operai italiani. E qui tutto quello che è stato fatto fra le due guerre di lavori pubblici sono stati fatti con operai italiani, con ingegno italiano. Altra cosa, il governo fascista ha fatto una cosa terribile, togliendo qualsiasi autonomia locale, però l'ha tolta a tutti gli italiani, cioè a tutti i comuni italiani, cioè i sudtirolesi qui hanno subito le conseguenze di una politica come quella fascista. Ed è chiaro che i comuni furono dati a podestà provenienti da altre province. I segretari comunali provenivano da altre province, non trentine, perché di trentini non ci si fidava tanto, perché i trentini avevano nostalgie asburgiche un po', oppure avevano cattive idee sull'autonomia, no, fem da noi, no, per carità, decide Roma, quindi i trentini non erano tanto adatti, però devo dire, qui gli impiegati statali, che sono tutti stati importati evidentemente, cos'erano? In parte meridionali. Gli operai erano in gran parte veneti, reclutati nella terribile zona del Rodigino e del Polesine, no? Era una regione di tale povertà, di tale miseria, per cui l'ordine pubblico era continuamente in pericolo. Anche i fascisti sapevano che non si poteva andare avanti con le squadracce, no? Le squadracce andavano bene per far paura al re e ai governi liberali, no? Ma non per veramente aver ragione dei contadini di volta. Sì, li poteva ammazzare un po', ma insomma a un certo momento li dovevi lasciar pur vivere, no? Li dovevi lasciar pur vivere perché dovevano pur qualcuno coltivare la terra, no? E lo squadrista non era adatto a zappare la terra. Era il figlio di qualche avvocato, di qualche persona così, che amava così passare la sua giovinezza, fare la sua epos giovanile, no? Simile a quelli di 68 dopo, no? Menando le mani, facendo razzie, facendo dimostrazioni, contestando l'autorità, contestando anche i padri. No? Ecco, adesso c'è quel libro di Franzinelli che è raccomandabile, molto buono il libro di Franzinelli sullo squadrismo. Ecco, e questo, voglio dire, è successo fra le due guerre, questa immigrazione di veneti, di meridionali e poi di persone di alto livello provenienti da altre regioni per occupare posti di grosso riguardo, di grosso valore, come i primariati, che li abbiamo avuti eccellenti nell'ospedale, nella sanità e poi nell'industria. Magnon Longon, l'unico martire della resistenza qui nella nostra provincia, lavorava appunto nella zona industriale. Era un tecnico, un ingegnere della zona industriale. Non era comunista, anche se poi l'AMPI ha monopolizzato la memoria di Magnon Longon, però non era assolutamente comunista. Quindi voglio dire... Io ho sentito parecchie persone dirlo invece. Ecco, non è detto che certamente nessuno lo scrive. Oh, ecco, e allora basta, ma però si dicono le cose anche non scrivendole. Voglio dire che sì, l'immigrazione è stata variata, eccetera. Voglio dire, vi dovrei parlare un poco del ruolo che hanno avuto i maestri elementari, che è stato fondamentale. Non si capiscono tante cose senza questo. E poi del fatto che qui ci sono stati i fascisti. Cioè, squadristi, gente della prima ora, sono venuti qua e hanno imposto il fascismo. A questa gente che veniva qua, che era invece di ascendenze socialiste, o discendenze cattoliche, ma certamente per niente fasciste. Gran parte dell'immigrazione italiana non era all'insegna dell'ideologia fascista. La maggior parte degli italiani che sono vissuti qui non hanno mai pensato di esprimere una ideologia fascista qui in questa provincia. Però ci sono stati i fascisti che hanno governato, hanno dominato. Ecco, questo è sicuro. E le conseguenze di questi fatti, è vero, si sono poi riflessi anche fino ai nostri giorni e continueranno a riflettersi, perché non si può pensare che questa storia si cancelli. Memoria buona o memoria cattiva che sia, si giochi pure su questa parola della memoria, però sì, finisco subito, però anche gli altri hanno tirato su abbastanza in lungo, è vero, e io pensavo soltanto di fare alcuni accenni sulla questione che è più importante per tutti noi che viviamo qui, no? È chiaro, e ho cercato anche di essere molto semplificatorio e di rappresentare. Vorrei concludere dicendo solo questo: nel 1921 gli italiani rappresentavano un quinto della popolazione, i sudtirolesi di lingua tedesca i 4/5. Secondo un censimento occulto, non ufficiale, fatto dai fascisti del 1936, nel 1936 i tedeschi erano 2/3 e gli italiani 1/3. Questa è la dimostrazione che l'immigrazione c'è stata. C'è stata una forte immigrazione. Adesso qual è la situazione? La situazione è quella che da 1/3, guardate che qualche politico democristiano addirittura ha detto ma beh, bisognerebbe fissare questa proporzionale, no? È vero perché. Bisogna fissare questa proporzionale a un terzo, anche se poi non è vero. Bene, il processo è inverso a quello durante il periodo fascista. Qui si va da un terzo a un quinto, cioè si torna verso le proporzioni del 1921. Chiudo lasciando da parte alcune osservazioni piuttosto importanti sotto il profilo umano che vengono di solito trascurate e che fanno torto un poco al senso di maturità e della popolazione qui di tutti i gruppi linguistici. Cioè la popolazione qui, sia italiana, sia tedesca, sia ladina, è migliore di quanto sembri, anche se qualche spirito maligno potrebbe farla renderla peggiore. Ecco, speriamo che non abbiano strada aperta gli spiriti maligni.